Atlanta. Don't forget the Motor City. On the streets of Brazil. Back in the USSR. Don't matter where you are. All we need is music, sweet music. Street, canzone fatta da una marea di band, di gruppi, di personaggi. Questa è quella storica a due voci, David e Mick, Jagger e Bowie, Dancing in the Street. A proposito di chi è in strada, non riesco a vedere sino a dove è situato il nostro amico Nando, che mi manda questo sms e mi dice: sono qua dietro la vostra sede, di fronte alla stazione centrale, in strada a girare uno spot pubblicitario con un divano volante. Porca, il divano volante non è male, eh? Sapevo del tappeto, ma il divano, e nell'auricolare naturalmente c'è Rock FM. No die, son, you gotta work late. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime. Oh, well, my mom and papa told me, son, you gotta make some money. If you wanna use a car to go riding next Sunday. You can't use a car 'cause you didn't work or live. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. I'm gonna take 2 weeks, gonna have a fine vacation. I'm gonna take my problem to the United Nations. I'd like to help you, son, but you're too young to vote. Sometimes I wonder what I'm gonna do, but there ain't no cure for the summertime blues. folks spend their whole lives trying to keep. They carry it with them every step that they take. On the Edge of Town con Springsteen, chiusura del nostro ultimo tris aperto da Eddie Cochran con Summertime Blues. Lynyrd Skynyrd alla fine erano in scaletta, visto con Truck Driving Man e appunto Springsteen con Darkness on the Edge of Town. Saluto Phil da Livorno, non mi risulta quello che mi chiedi, cioè la possibile entrata nella band dei Velvet Revolver di Sebastian Bach come vocalist, quindi per ora sono soltanto voci assolutamente non confermate. Di confermato è che questa sera registrerò un'intervista con Baustel, che sono anche l'ultimo motivo del nostro appuntamento di quest'oggi, intervista che poi posizioneremo nelle prossime giornate, quasi sicuramente nella nostra ultima settimana di proposta live qua su Rock FM, da lunedì 26 al venerdì 30 con i vari ospiti. Un grazie per avermi seguito, vi rimando all'appuntamento di questa sera di Hard and Heavy. Tra poco con voi ci sarà Claudia e, come detto, chiudo con il nuovo singolo dall'ultimo album più recente per i Baustel. A domani, ciao ciao! Siamo architetti ricchi di Belen e vecchie dive del mar. Abbiamo ville, abbiamo Cadillac ed uccidiamo per soldi come te. Vuoi controllare i nostri alibi? Siamo eleganti e sereni. Siamo avvocati rispettabili e ci inchiniamo al denaro come te. Ci annoiamo, abbiamo mogli e amanti, abbiamo tanti amici. A guardarli bene tutti e fermi, che siamo costretti a eliminare la logica spietata del profitto. Chissà cosa ci fa Beverly Hills, e siamo John Cassavetes. Siamo i dentisti di Los Angeles ed adoriamo il potere con...